Torniamo in Italia. Il Senato inizia oggi l'esame in aula del cosiddetto premierato, la riforma della Costituzione voluta da Giorgia Meloni. Dalle opposizioni viene denunciata un'accelerazione sui tempi del provvedimento in vista delle elezioni europee. Sentiamo il costituzionalista Massimo Villone. Hanno stabilito l'avvio della discussione generale e la presentazione degli emendamenti lo stesso giorno, che è una cosa veramente singolare. Questa stretta da intendere che c'è la possibilità di arrivare a un voto prima delle europee. Io dubito però che si arrivi a un voto sul premierato senza che si arrivi a un voto sull'autonomia differenziata alla Camera, perché alla Camera si comincia il 22, non so se ce la si può fare per il voto europeo, probabilmente no. Se andasse oltre il voto europeo l'autonomia differenziata alla Camera, dubito molto che ci sarebbe un disco verde sul premierato al Senato, perché mi pare che ci sia un patto d'acciaio, diciamo, che nessuno prende la testa in questa corsa a sfasciare le istituzioni. Poi, qualunque sia l'esito, supponiamo per esempio che la Lega perde posizioni rispetto agli alleati di governo, perché Salvini ha fatto la scommessa su Vannacci e Zaia già di dichiarato guerra dicendo che non lo voterà, quindi c'è una tensione evidente. Se questo porta a loro un danno sul piano elettorale, non è detto che la Lega abbandoni il campo sull'autonomia, anzi al contrario, secondo me cercherà una rivincita. A Palermo proseguono le indagini sull'incidente che due giorni fa ha provocato la morte di 5 operai in una fognitura della città per esalazioni tossiche. Alcune cose sono appurate, i lavoratori non avevano protezioni individuali come avrebbero dovuto. Altre sono da chiarire, innanzitutto perché gli operai siano scesi nei cunicoli, cosa che non era prevista dal contratto di appalto. Sentiamo Massimo Alberti. La legislazione sulla sicurezza sul lavoro, quella preventiva, è piuttosto dettagliata nel normare le procedure per lavorazioni pericolose, come quelle in ambienti chiusi e con sostanze nocive, che in questo caso non sono state palesemente rispettate ed oggetto di indagine della procura se chi le svolgeva fosse preparato. In questo senso la vicenda di Palermo è un caso scuola. Hanno ragione magistrati come Guariniello, Giordano a dire che le leggi ci sono e vanno applicate, ma sono davvero applicabili nell'attuale sistema economico e produttivo ormai totalmente traslato sulla centralità dell'impresa? Se fossero seguite le procedure di sicurezza si salverebbero vite, ma si allungherebbero tempi e quindi costi. Appaltare diventerebbe antieconomico, quindi la catena di appalti e subappalti strutturalmente non può che tagliare sulla sicurezza. Raccontano lavoratori che operano in queste catene, spesso con stazioni appaltanti pubbliche, di dover spesso acquistare a loro spese i dispositivi di sicurezza, erodendo paghe già minime. In questi contesti esercitare il diritto a rifiutare lavori pericolosi sanciti da diverse sentenze è pura fantascienza. Scaricare sul singolo lavoratore la responsabilità per non autotutelarsi è miope in un sistema la cui impalcatura è costruita per tutelare prima i margini di profitto, poi chi lavora. La vigilanza delle stazioni appaltanti, sempre in nome del massimo risparmio, come in questo caso oggetto di indagine, è spesso assente. Uno dei 4 referendum promossi dalla CGIL, oltre a cancellare il Jobs Act, punta a cancellare la norma che esclude la responsabilità solidale delle aziende committenti nell'appalto e nel subappalto su infortuni e malattie professionali. Una modifica, come abbiamo visto, quanto mai necessaria. Tempo previsto per la giornata di oggi, sereno al nord, la perturbazione dei giorni scorsi viaggia verso il centro-sud dove sono attesi temporali e grandinate. 7:46 minuti è tutto per questa edizione, in studio Diana Santini, in redazione anche Andrea Monti, grazie a tutti voi per l'ascolto, a più tardi. Quanti operai devono ancora morire per capire anche dalla più piccola cosa, dal più piccolo aspetto sul lavoro, chi ha un minimo ricordo sin dai tempi di capo cantiere, di operaio, di facchino della logistica, in un percorso di fabbrica e di cantiere, per chi aveva un minimo di coscienza sul lavoro, anche dalle più piccole cose, pur di una riuscita agevole e nello stesso tempo funzionale, quante volte si andava in tasca pur di riuscire a fare questo? Soldi è una piccola cosa. È una minima cosa rispetto a quello che sentiamo, ma è un piccolo foro in una enorme muraglia che sono chiamati diritti sul lavoro, che creano poi uno sfacelo. Io invito di non fare il mio sbaglio, anche se è una piccola cosa, mi proponevo, mi mettevo a disposizione, lavoravo addirittura in condizioni non solo per quanto riguarda la sicurezza, ma anche per la concretizzazione del lavoro, portando un aspetto economico in perdita io di denari che non ho mai più rivisto. E allo stesso tempo, anche a proposito di tempi di lavoro, per straordinari, per motivi di estensione lavorativa e per la riuscita e la consegna del lavoro stesso, in tempi mai pagati, mai risarciti. Sono, rispetto alle vite che troviamo in questo momento, troncate da quello che è un lavoro assassino, perché questo è il termine giusto che ha portato un capitalismo e un liberismo fascista ai danni delle lavoratrici e dei lavoratori. Sono piccoli aspetti, no? Sono tanti forellini che poi creano un abbattimento del diritto. È una coscienza, purché il lavoro riesca, no? Purché ci sia una realizzazione, dopo diventa più agevole. Ecco, questo è un piccolo sbaglio che puoi a cascata creare delle situazioni irreversibili, anche perché il vorace capitalismo non si ferma a questo, vuole sempre e costantemente di più. Vedete, quelli che parlano dei dipendenti, degli operai, siano tutte le fortune, tutte queste baggianate, insulse, provocatrici e false, oltre a non avere senso, non corrispondono alle lavoratrici e ai lavoratori che in maniera coscienziosa portano avanti, addirittura escono di proprio profitto purché si realizzi, per una disponibilità, una vicinanza, un legame, perché amiamo il nostro lavoro, perché c'è una sorta comprensibile di attaccamento al dovere, attaccamento al lavoro. Di questo non parlano mai, di tutto ciò non. Chi legge la busta paga per le ore di permesso, per le ore di ferie, tutte quelle non godute. Come vi ho detto, si è poi arrivati a un oltre irreparabile, irreversibile. Man, not only that, I was conscious of my mind, super conscious of my mind, but he also has a subconscious mind. And it is in this deep subconscious mind. È il momento dell'incipit. Comunque, quando ascolto i GR, veramente c'è da... AstraZeneca ha ritirato dicendo sì, perché può dare pochissimi e rarissimi effetti di trombosi, ma a chi la stanno raccontando, ma a chi stanno portando queste tremende e mendaci notizie, i grandi delle case farmaceutiche, per i disastri portati, anche in questo caso irreversibili e completamente invisibili, L'incipit che parte in questo momento. Ho rubato qualche minuto a Silvia Pioggia, la Sissa, per il lavoro delle 20 righe, per portare in maniera letteraria l'inizio di una lettura. Quindi do la linea alla Sissa, Silvia Pioggia, e conosceremo un incipit da lei selezionato. Ciao, sono la Sissa e questo è l'Incipit, tutto in 20 righe. Il grande Oscar Wilde diceva: non c'è una seconda occasione per fare una prima buona impressione. E allora, che cos'è la prima pagina di un libro se non la sua prima occasione? Ci affidiamo sempre alla prima impressione, quando conosciamo qualcuno, quando dobbiamo cambiare, tutte le volte che dobbiamo fare qualcosa di nuovo. E allora, perché non farlo con le prime righe di un libro? Chissà cosa hanno pensato gli autori nel decidere che sì, quello era un buon incipit per il proprio manoscritto. Chissà se hanno pensato a che effetto avrebbe avuto su di noi potenziali lettori. Io sono molto istintiva e mi lascio attrarre dall'estetica del volume e dal fascino dell'autore. E voi, in base a che cosa decidete se e quale libro cominciare? Leggerò insieme a voi la prima pagina di alcuni volumi che ho trovato nel mio girovagare per la città e scopriremo se questa teoria delle 20 righe è un metro efficace per le nostre selezioni. Buona la prima! Questa è la prima pagina di In mezzo al mare di Mattia Latorre. Mattia Torre. Aspettavo una sua telefonata, come sempre. In televisione la conduttrice mandava in onda un programma di astrologia finanziaria. Era il momento di investire per i gemelli. Ma non ero di cattivo umore per questo, neppure per la torta che stavo mangiando, una torta al cioccolato che anzi aveva una stupenda confezione salva fragranza. Continuavo ad aspettare la sua telefonata, ma non era neanche quello a causarmi questo cattivo umore, figuriamoci. Era da mesi che non la sentivo e non la vedevo, o meglio, che la sentivo e vedevo dappertutto. Era diventata una specie di ossessione. Elena. A casa, al lavoro, per strada, nello specchietto retrovisore, sui cartelloni pubblicitari, nelle prime pagine dei giornali, nelle carte buttate per terra. Elena, io la vedevo dappertutto. Una volta la vidi anche nelle tracce di una frenata sull'asfalto. Beh, io vi dico solo questo, che se volete farvi due grasse, grosse risate, questo libro lo dovete assolutamente leggere. Come on, my readers! Now that it's grazie a Silvia Pioggia, la Sissa, per l'incipit. Chiudiamo anche per quanto riguarda questo piccolo spazio prima della rubrica. Oggi è mercoledì, quindi il voltiamo pagina. Ribadiamo il 333-180-9494 per avere nelle vostre biblioteche sullo scaffale Radio Città Fujiko. Beh, prima bisogna rispondere ai nostri difficilissimi quiz, le pubblicazioni che portiamo in presentazione con Silvia Albertazzi. Ci sarà anche una piccola sorpresa musicale, quindi, beh, oltre che la playlist, avremo, curata da Silvia Albertazzi e Stefano Calanchi nel Voltiamo Pagina, avremo modo anche di mettere a disposizione due biglietti per il Ravenna Jazz Festival e la serata di domani. Quindi oggi musica e letteratura per voi al 333-180-9494. A tra poco!